Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo in diretta a Ristoradio Convento, di nuovo benvenuti a tutti, Master Nick al microfono, non solo, perché siamo in compagnia di un misto di tante cose, insomma si è trasformato in tante cose durante la serata che neanche Arturo Bracchetti, il famoso trasformista attore, un po' Babbo Natale, un po'... qualsiasi cosa, sì, sì, sì, un po'... Esatto, un po' Babbo Natale, un po' Silente anche, cioè quel ricordo lì, ma soprattutto in vendita, questo è il messaggio. Totale, non so, di fallimento, qualsiasi cosa, un solo... Ah ok, no, il cartello è dietro, non lo diciamo, anche perché non vorrei che poi prendesse sul serio e ci lasciasse un regalino, cosa che non desidereremmo. Allora, come ti chiami intanto? Diego, da dove vieni? Verona, e stai festeggiando cosa questa sera? L'addio al celibato. Il tuo sera, sì. Il tuo addio al celibato, sì, molto sì, bene. Ho portato qua questa manica di marammari. Marammari. Delinquenti. Marammari, no? È bella come definizione. Brettellati, infatti lì volevo arrivare, amici molto eleganti, lo voglio sottolineare, sì, sì, che stanno anche cercando di lanciare una moda che potrebbe essere, come dire, molto influente quest'estate, cioè la bretella anche sulla maglietta, che è insomma un qualcosa mai visto prima. E no, ecco, torniamo al... noi ci siamo sentiti, o meglio, anche visti, a inizio serata. Prima. All'inizio della serata, non dicevo, in cui avevi una missione che i tuoi amici ti stanno ricordando col cartello fuori. Infatti, sì, il nostro... Guarda, fallimento totale. Fallimento totale. Spieghiamo però, perché il nostro Diego aveva questa missione di vendere, o meglio, promuovere limoni, perché erano gratis, giusto? Sì, non so, mi hanno costretto questa cosa qua. Cioè proprio questa sera non ho, cioè perso completamente la mia dignità. E com'è andata? E com'è andata la promozione? No, veramente tanto bene, veramente, che potevo fare qualsiasi cosa. Oh, beh, questo ci fa piacere. Dicevo, com'è andata la promozione? La promozione io ci ho provato, perché insomma sono parecchi ragazzi singoli, io ci ho provato, sì, a... E in più, sottolineiamolo ancora, è gratis, capito? Quindi insomma, cioè, non c'era del costo. Io ci ho provato, immolarmi per loro e ho raccattato, cercato qualcosa di fare, di muovere. Hai dato il tuo contributo. Ok, e invece male, no? Invece non lo so, adesso è tutto da vedere. Ah, è tutto da vedere, ancora tutto aperto. Ancora... c'è tutta la serata ancora. Diciamo che stasera ha seminato, poi vediamo se i frutti arrivano. Ah, giusto, ci sta. Diciamo che facendo un paragone calcistico siete rientrati negli spogliatoi e tra poco si riparte per il secondo tempo, no? Adesso vi faccio un cazzo. Che è quello decisivo. Adesso gli faccio un cazzetto e dico, porca... è tornato in campo il secondo tempo e dovete limonare qualcosa. Ci sta, è il discorso che tutti i mister tra l'altro fanno nello spogliatoio. Io sono incazzato adesso, per il primo tempo è stato giocato un po' così. Prima non prenderle. Esatto, poi abbiamo studiato l'avversario. Sì, esatto, hanno studiato giusto l'avversario, adesso siete pronti a colpire. E là, ecco, Diego, facci un po' capire anche quale sarà la tattica di questo secondo tempo, cioè, come dire, contropiede, quindi... giocare in velocità, oppure strategica, allora, tattica? Io non so se proverò ancora a sacrificarmi, perché sai che non ci sarò proprio un po' stanco. Proverò a sacrificarmi per loro, quindi cioè mi punta davanti, io sono centravanti. Certo. E proverò. Fai sponda. Rendersi, certo, tu fai sponda e li fai andare al tiro. Non da perdere, capito? Giusto. Cioè, quindi proverò per loro, immolarmi per loro. Okay. Poi sai, quando quella squadra va tutta in avanti, le occasioni si creano, certo. Diciamo che continuando il paragone calcistico, tu giocherai spalle alla porta, fai sponda e cerchi di farli segnare, giusto? Sì. È quello che prende le botte. Lacrime permettendo, perché io sono un attimo di emozione. Emozione. Capito, quindi. Però proverò il secondo tempo tutti su. Ti sponi. Alla bersagliera. Lunga e pedalare. Alla bersagliera. A proposito, dai, presentaci anche i tuoi amici, 4-5 che sono qui, perché poi il gruppo è molto più ampio, ma chiaramente non ci stavano, se no ci denunciavano per la 626. Allora, però... abbiamo adesso il mio testimone, è andato fuori, non so perché, forse ha conosciuto una ragazza. Forse è vergognato di essere il tuo testimone, ha deciso, ha cambiato idea. Alla larga. Non lo so. Allora, qui ho Fabrizio, che secondo me è un buon centravanti, capito? Okay. La qualità c'è, e sono un ragazzo di qualità. Ragazzi, quindi secondo me può puntare alto. Poi abbiamo qua Cristian. Cristian, non so, è un artista, sai, lui suona la chitarra, è un po' così, un po' fantasista. Artista. Lo mettiamo da. È 10 della squadra. 3/4. 10 no, dai, okay. Diciamo che sono fantasista, però no, 10, sono l'8 come Gattuso, dai. Non so, ma tra i meno. Poi abbiamo Paolo e Lucio che secondo me potremmo andare in attacco. Mari, Paolo, gemelli Derrick, bello, le gemelli Derrick. Allora, secondo me Lucio se va male, Paolo agguanta la pizza. Non lo so. La preda. Ci compensiamo. Ah, ok, dovrei, bene. Il duo davanti in attacco. Ci sta. Insomma, una squadra offensiva, quando abbiamo capito che 3 di 4 attaccanti, quindi. Giusto sulla 0-0, siamo ancora. Abbiamo avuto un paio di occasioni, allora, però li abbiamo sbagliate. Non so se i 5 assenti. Ci rifaremo. Certo. Ripeto, c'è ancora tempo. Una squadra da 12. Arriviamo in 11, perché io non ho contato bene, capito? Sì, no, si è trovato in mezzo e. Forse siamo scesi in 9 direttamente in campo, non lo so. Vabbè, insomma, però è importante che vi state difendendo con onore. È una bella squadra e l'arbitro non ha detto niente. Giochiamo in trasferta perché comunque qua. Esatto, perché noi siamo di Verona. Esatto, fuori dal vostro habitat. Io ero convinto che non portassi da Jesolo e invece siamo venuti qua. E non lo so, quindi guarda, non abbiamo niente da perdere. Ci sta. Sono a posto. È una partita un po' barbosa. Io sono a posto e quindi esatto. Una partita barbosa, gesto, e tu sei pronto per l'occasione. Bene, allora vi lasciamo andare a giocare il vostro secondo tempo nella speranza che appunto questa semina dia buoni frutti. Esatto. Vuoi dire qualcosa ancora a Diego? Non so, vuoi dire qualcosa a Martina? Vuoi dire mandare un messaggio? Ah, io questa sera so che anche lei ha la Ti amo. Ti amo. Bello. Mi inquieta un po' il fatto che il coro sia partito dagli amici, scusa, e non da lui. Guarda, però allora, insomma, aspetta, va bene. Ok. Ti leggiamo nel pensiero ormai. C'è questa connessione. Va bene che capiamo. Io sono talmente convinto della mia scelta che. Boh, cioè, se sono una ragazza di cui veramente c'è. Allora siamo sinceri. Innamorato. Ha avuto delle occasioni. E poi sarete in tre, non sarete in due. Siamo in tre. Ha avuto delle occasioni stasera, ma. È talmente innamorato della sua Martina che le ha scartate, però non ha neanche considerate. Bello. Siamo due ragazzi di fede e questi amici qua veramente hanno fatto tanto per la nostra coppia e anche quelli che ci sono fuori, che sono qui. E grazie a Dio perché veramente se sono arrivato a scegliere, a fare questo passo di sposarmi è perché lui ci ha messo tanto. Bello, si sente che. È ubriaco! Bello, arriva dal cuore, si sente che sono parole sincere. Va bene, allora ragazzi, in bocca al lupo per la vostra festa innanzitutto e per questo famoso secondo tempo di cui abbiamo parlato. Dai, e in bocca al lupo. Vai, tutti a tutti all'attacco da subito. Lunga vita al lupo! Da subito. La Ronzo Canà. Allora in bocca al lupo ragazzi, a presto, auguri ancora al nostro Diego. Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao ragazzi!